Tenendo conto della stessa precauzione da cui già come partito, un tema vastissimo, potere e modernità, e anche molto sfuggente, vi sarà chiaro perché io mi dimensionerò su un trattamento di questioni sempre molto generali e complesse, ma un po' più specifiche. E quello di cui vorrei parlare è proporvi una chiave di lettura che legge il rapporto tra modernità e potere al tempo stesso come processo dell'affermazione del potere assoluto che è passato attraverso le tematizzazioni, le teorizzazioni che Giacomo ha ripercorso, anche come un processo però di lungo addomesticamento del potere stesso che la modernità ha compiuto. Da questo punto di vista, per capire le affinità, ma anche le leggere e forse non solo leggere divergenze tra l'impostazione che ci ha proposto Giacomo e quella che cercherò di esporre io, che non sono, come sapete bene, una filosofa politica né una politologa, sono un economista. E quindi ho accettato con riluttanza, ma anche con una sorta di fascino, di cimentarmi con la problematica che questa sera discutiamo, per chiarire, diciamo, le affinità e anche le possibili divergenze, ma anche soltanto per magari scoprire che divergenze non ci sono e cercare di continuare una ricerca lungo un fecondo percorso comune che è quello indicato alla fine da Giacomo quando ci propone un reincantamento della politica, prospettiva sulla quale sono assolutamente d'accordo. Mi riferirò, dicevo, per chiarire a un'espressione che Giacomo oggi non ha usato qui ma era presente soprattutto nella parte conclusiva e che Giacomo ha usato nella premessa e nell'ultimo capitolo che ha aggiunto all'ultima edizione di Passaggio ad Occidente, un libro molto importante che per l'occasione, come tanti altri libri, sono andata scrupolosamente a rileggermi perché volevo ben prepararmi. Allora, l'espressione che Giacomo usa lì allude alla necessità di costruire un ordine post-hobbesiano quando parla appunto di questo reincantamento della politica a cui siamo chiamati. E l'ordine post-hobbesiano, secondo Giacomo, consentirebbe anche di superare la polemica tra liberalismo e comunitarismo, che oggi è una polemica rilevantissima, se vogliamo appunto discutere di potere e società, organizzazioni statuali, istituzioni e società. La società è l'altro grande termine che dobbiamo sempre tenere presente quando discutiamo di problematiche del potere. E Giacomo propone di superare questa polemica con un universalismo, lo chiama lui, della differenza. Anche su questa prospettiva sono assolutamente d'accordo, ma questo sarà oggetto di altri seminari, di seminari successivi. Quello su cui in questa relazione voglio soffermarmi è un'analisi, una valutazione dell'ordine, per l'appunto, da cui veniamo, posto che sembrerebbe potersi dire che, siccome dobbiamo costruire un ordine post-hobbesiano, l'ordine da cui veniamo è un ordine hobbesiano. Già le cose che ha detto Giacomo oggi consentono di dire che non è così, tant'è vero quando ha ricordato le differenze di impostazione tra Machiavelli e Hobbes, che poi hanno dato luogo a filoni fondamentali. Ma su questo io però voglio insistere, perché c'è una rappresentazione che tende a fornirci la rappresentazione dell'ordine da cui veniamo, l'ordine che è in crisi, che è sottoposto a stress, l'ordine come ordine hobbesiano, e questa rappresentazione è una rappresentazione tanto più pericolosa perché viene esattamente dall'aggressione maggiore ha la possibilità di fare un nuovo reincantamento della politica, e cioè dalla deregolazione, dal neoliberismo, dalla sottrazione del potere alla politica, che è venuto da questi ultimi 30 anni di affermazione del pensiero e della realtà del pensiero unico. Io penso che l'evoluzione della modernità nazione, lo sviluppo delle democrazie, lo strutturarsi degli stati e della statualità, insisto moltissimo io, più di quanto Giacomo non abbia fatto oggi, anzi mi pare che non l'abbia per nulla evocata questa problematica, statualità, è una parola in italiano che traduce difficoltosamente una parola inglese molto pregna di significato, che è stateness, che allude a un complesso di sfere, di dimensioni che non sono riducibili agli stati, che però esprimono una dimensione importantissima di esercizio del potere. E penso che lo strutturarsi appunto degli stati e della statualità si è svolto in processi estremamente complessi e differenziati, secondo modalità molto articolate e differenziate a loro volta, e tali per cui gli esiti che oggi osserviamo sono a loro volta molto differenziati. Vi sono molti tipi di stati diversi, e sono diversi questi stati sia nelle loro matrici originarie, per esempio per gli stati scandinavi, per gli stati scandinavi europei i politologi li descrivono come reform state, per alludere alla capacità attivatrice e mobilitatrice che questi stati hanno avuto sin dalle loro origini, di forze riformatrici. E non per caso a tutt'oggi consideriamo le democrazie scandinave come un esempio eccelso, quasi idealtipico di realizzazioni che sono state fatte. E queste differenze degli stati sono ancor più evidenti nei loro decorsi storici. In particolare io penso che gli stati democratici costituiscono qualcosa di straordinario. La straordinarietà di questi stati non va assolutamente smarrita nella ricerca che dobbiamo oggi compiere. Il modello hobbesiano io ritengo che vada criticato in modo duplice, per ciò per cui viene frequentemente criticato, e cioè il fatto che quel modello produce assetti assolutistici e autoritari, ma anche per ciò che spesso è trascurato e che io invece considero molto rilevante, cioè le premesse da grossolana antropologia negativa su cui quel modello si basa. Un'antropologia che visualizza l'individuo come egoista, acquisitivo, possessivo, atomo isolato, privo di legami sociali e dotato solo di passioni tristi. C'è quindi anche tutta una rimozione della sfera delle passioni, e pensiamo a quanto è stato importante nella formazione della modernità tutta la problematica delle passioni. Un individuo meccanicisticamente posto in relazione con la propria naturalità e con la natura del mondo che lo circonda. Un'antropologia costitutiva, questa, del paradigma dell'homo economicus, e quindi ha fatto bene Giacomo a ricordare le profonde connessioni tra identificazione di potere e sovranità e affermazione di un modello economicistico di razionalità strumentale che è al centro della visione di Weber, di Max Weber. Massimo Terni, in un seminario che abbiamo fatto, io farò molto riferimento ai seminari che abbiamo già tenuto, dimostrando, almeno per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, che davvero è un lavoro in itinere quello che svolgiamo, in cui ci si può influenzare, ci si influenza in modo anche estremamente proficuo. Massimo Terni, in un seminario dedicato più ai libri di cui la biblioteca Basso è dotata, che sono libri eccezionali perché sono anche originali, di Hobbes, dello stesso Hobbes appunto di cui oggi parliamo, di Baudin, di tanti altri di cui abbiamo parlato, in quel seminario dedicato alla modernità e ai libri, all'enorme importanza che i libri e lo squarciamento degli orizzonti mentali che i libri hanno provocato, ci ricordava che Hobbes ha dietro le spalle la fisica di Galileo, in base alla quale riduce tutta la realtà, compresa quella dell'essere umano, a una dinamica di corpi in movimento. La costruzione dello Stato è per neutralizzare la natura dell'uomo visto come corpo in movimento. Lo stato di natura è presupposto, secondo una visione alla Democrito, in cui non esistono criteri di giustizia e di ingiustizia, ma solo dolore e piacere. lo Stato come artificio è quindi completamente diverso dallo Stato come governo giusto, di origine agostiniana, questa formulazione che era propria di un quasi contemporaneo di Hobbes, che era Boudin. E qui già emerge la problematica della giustizia, che, alla quale io do enorme importanza e su cui anche Giacomo ha fatto decenni. Al contrario di questa antropologia negativa, io baso la mia convinzione che il rapporto tra modernità e potere sia interpretabile anche come addomesticamento e incivilimento e umanizzazione del potere compiuto dalla modernità, che è stato appunto uno dei grandi lasciti dell'umanesimo della modernità, la baso questa convinzione sui seguenti elementi. Primo, un'antropologia meno negativa e meno grossolana, in cui l'altruismo è altrettanto possibile dell'egoismo. Un sociologo, Elster, discuteva il paradigma economicistico dell'homo economicus dicendo: l'egoismo è presupposto, l'altruismo deve essere dimostrato. Non si capisce perché l'egoismo è presupposto, l'altruismo deve essere dimostrato. E inoltre, in questa antropologia meno negativa, l'intersoggettività, l'intercomunicatività, la socialità e la cooperazione sono costitutive, tutti i termini che rimandano a autori molto importanti nella mia affermazione, che oggi invece in Giacomo abbiamo sentito poco presenti, Habermas e il filone anche del riconoscimento, che tu l'altro giorno hai liquidato con una battuta che invece io vorrei che... A mio parere segue da questa visione la fallacia del dispositivo dello stato di natura che usa Hobbes e che hanno usato praticamente tutti i politici e i politologi della modernità, quasi tutti, per fortuna. Io penso, al contrario, che la natura prepolitica della vita extrapolitica è assolutamente un mito. Secondo, io penso che si debba adottare una visione deliberatamente inattuale. Faccio una scelta, come Giacomo fa, e io lo seguo con entusiasmo, una scelta inattuale, parlando di disincantamento della politica, di un nuovo incantamento della politica. Io dico che per me è già una forma di nuovo incantamento della politica adottare una visione deliberatamente inattuale del significato dell'esercizio del potere e della politica come vivere insieme e come dedizione per il bene comune. Terzo, io cerco le tracce di una simile antropologia positiva e di una simile visione alta della politica nell'esperienza degli stati democratici moderni, nella costruzione delle democrazie e delle sfere pubbliche democratiche, nelle articolazioni della statualità generanti mediazioni istituzionali fondamentali per trattare i conflitti, produrre esiti di giustizia, realizzare combinazioni progressive di universalismo. Il cuore della mia riflessione di oggi è per l'appunto questo, il significato che ha assunto la mediazione istituzionale terza, quel principio di terzietà di cui ha parlato anche Giacomo, che si è stata realizzata attraverso le varie forme di statualità e che ha generato quell'addomesticamento del potere avvenuto con la modernità, soprattutto attraverso l'esemplificazione degli stati sociali, dei welfare state, di cui parlerò non per gli aspetti economici, sociologici, statistici, su cui non vi affliggerò, che è la mia competenza, ma cercherò di parlarne dal punto di vista del significato appunto politico, di filosofia politica. Posso saltare una parte a cui avevo pensato di precisazione di significati che attribuisco ad alcuni termini, perché mi ritrovo completamente nelle affermazioni che già Giacomo ha fatto: il potere non è un attributo ma è una relazione, e quindi da questo discendono molte implicazioni, una delle quali è che la costruzione di significato è enormemente rilevante nell'esercizio del potere, senso, significato, significati, ed è tanto più rilevante quanto minore è l'uso del ricorso alla violenza, legittimo o meno che esso sia. La modernità mette in relazione il potere con la politica e la politica con lo Stato. La congiunzione di potere e politica dà alla politica il significato di luogo, agorà proprio in termini di polis greca, dove i problemi privati si traducono in questioni pubbliche e gli interessi pubblici in diritti e doveri individuali. La politica è quindi sfera della riflessione critica e dell'attività consapevolmente collettiva. La politica è sforzo comune e scelta collettiva. Il processo di legittimazione è la chiave che mette lo Stato in grado di stabilizzare l'esercizio delle sue funzioni, che non sono mai riducibili a sole funzioni di dominio, come Giacomo ha sottolineato. Io propongo una concezione sostanziale di democrazia, la quale dunque non è solo un insieme di processi e di procedure, ma è anche e soprattutto scelta di politiche. La costruzione di senso e di significato in democrazia si basa sull'azione comunicativa e su una razionalizzazione cognitiva sottostante, molto rilevante, tanto più quanto più consideriamo quei processi di violenza simbolica a cui Giacomo ha fatto in conclusione così intenso riferimento. C'è dunque una dimensione importante del potere come capacità di rappresentazione dei valori e degli interessi dei cittadini che si esprimono nel dibattito della sfera pubblica. In questa dimensione, anche in questa dimensione, c'è conflitto. L'emancipazione di un attore sociale spesso passa dall'aumento del proprio potere e dalla riduzione del potere di qualcun altro, ma c'è la possibilità di fare qualcosa con e non contro altri, secondo le parole, le grandi parole di Hannah Arendt. Ciò di cui io desidero sottolineare l'importanza è appunto la statualità. La statualità moderna è il fulcro della modernità. Statualità e cittadinanza che ne consegue sono sempre stati campi di tensione tra ragioni universali e ragioni particolari, a partire proprio dall'inizio, polis, polites, civis, civitas, come Giacomo ci ricordava. Nella modernità la cittadinanza è bipolare, centrata sulle ragioni dell'individuo, che è uno degli esiti principali del razionalismo politico moderno, ma anche sulla nazione. Tra nazione e soggetto si inserisce il soggetto terzo, che è appunto lo Stato. Ed è lo Stato che costruisce la cittadinanza. Lo Stato non ha fatto solo un'utilizzazione estremistica e nichilistica della nazione. Lo Stato, e a proposito di nazione ricordo il seminario che abbiamo fatto con Galli della Loggia, l'importanza delle cose che appunto lì dicemmo. Lo Stato ha regolato quelle tensioni fra individuo e collettività, le ha addomesticate attraverso la democrazia, e una delle realizzazioni più importanti è stato per l'appunto lo Stato sociale, su cui voglio soffermarmi. Grazie al welfare state, che è un'espressione che non traduce letteralmente Stato sociale, più complessa e quindi anche più propria, uno straordinario progetto di emancipazione collettiva si è saldato con un processo di modernizzazione economico-sociale e di costruzione delle identità nazionali. Entrambi hanno avuto come assi l'allargamento del consenso e la neutralizzazione di conflitti, tra cui esplosivi conflitti di classe, già come ricordava gli anni venti. E questo è avvenuto entro il quadro di una profonda interpenetrazione tra welfare state e democrazia da una parte, tra welfare, democrazia, sistemi valoriali e normativi dall'altra. Il welfare state costituisce dopo la fine della guerra di religione e l'avvento della rivoluzione industriale, la proiezione secolarizzata di contenuti normativi solidaristici con fortissima valenza morale, e il più importante inveramento storico degli ideali di libertà, uguaglianza, fraternità scaturiti dall'illuminismo e dalla tradizione umanistica settecentesca. Il riconoscimento di senso e di ragioni che si è estrinsecato nel lungo e contrastato processo di addomesticamento del potere e di successive metamorfosi dello Stato e degli Stati ha trovato nei sistemi di welfare una sorgente alimentatrice. Mediante essi è venuta istituzionalizzandosi una protezione sociale che in precedenza era stata resa dalla Chiesa, dalla famiglia estesa, dalle tradizioni feudali. Attraverso rivoluzioni e guerre, ma anche attraverso memorabili lotte non armate e movimenti politici pacifici, è divenuto chiaro come dice Dumont, un grande studioso della modernità, che l'essenza della vita umana non è la lotta di tutti contro tutti, homo hominis lupus. E la teoria politica non può essere una teoria del potere, ma una teoria dell'autorità legittima. È stata così assecondata una tenace aspirazione collettiva alla giustizia, attraverso l'affiancamento dell'idea di cittadinanza sociale a quella di cittadinanza politica. Sono stati conferiti diritti e libertà inedite e lo Stato, dice Scupiò, altro autore per me molto importante, soprattutto in un libro che si chiama Homo Juridicus, lo Stato si è fatto servitore del benessere dei cittadini. Alcuni beni fondamentali, salute, istruzione, adeguatezza del reddito nell'età anziana, sono stati progressivamente erogati attraverso servizi pubblici appositamente creati con l'aspirazione di renderli accessibili a tutti. L'allargamento degli spazi della democrazia e della legittimità dello Stato si è tradotto nel riconoscimento di libertà collettive e nell'estrazione di nuove regole dall'energia delle azioni e dei conflitti collettivi, grazie ai quali sindacati, partiti politici, movimenti democratici si erano fatti agenti di una poderosa trasformazione istituzionale di rapporti di forza in rapporti di diritto. L'Europa è stato il grande invaso di questa interpenetrazione tra welfare state, democrazia, sistemi valoriali e normativi. Qui il trittico della modernità, uguaglianza, libertà, fraternità, si è tradotto in un vocabolario di moralità politica fatto di parole chiave come persona, rispetto, dignità, capacità, autorealizzazione. Un lessico che è costruito sull'interdipendenza e non sul conflitto, non sul trade-off tra libertà e uguaglianza, si è estrinsecato nell'impegno squisitamente morale di tenere insieme un progetto di libertà e al tempo stesso di solidarietà, in breve una concezione di giustizia sociale. Il contrastato addomesticamento del potere ha indotto successive metamorfosi dello Stato. In Europa la costruzione di un'identità comune si è basata proprio sul riconoscimento delle divergenze, come ci ricordava Elena Paciotti in un altro dei seminari che abbiamo tenuto qui, ed è stata animata da una volontà etico-politica che si è espressa in processi di interpretazione, esegesi, reciproca intesa, esiti emblematici dei quali sono state prima la ricomposizione dei conflitti e la manifestazione dell'ansia di giustizia entro l'ambito degli stati sociali, poi l'autolimitazione delle sovranità nazionali nell'edificazione, in quella straordinaria operazione di edificazione che è l'Unione Europea. E questo processo di democratizzazione legittimante si svolge in un'architettura votata ad andare oltre se stessa, per il nucleo universalistico del suo programma istituzionale, ispirato dalla tensione a produrre un individuo socializzato e un soggetto autonomo. Individuo socializzato e soggetto autonomo, dice Dubé. Modello sociale europeo, pertanto, ha voluto dire che attraverso dibattito, scrutinio, valutazione critica è stata mantenuta elevata la sensibilità dei cittadini nei confronti delle patologie possibili della modernizzazione capitalistica e dei paradossi del progresso, e si è sviluppata in un contesto segnato dalle tradizioni sociali cristiane e dalla presenza di movimenti operai ugualitaristici, un'etica solidaristica della lotta per una maggiore giustizia sociale, molto diversa da un'etica individualistica di giustizia fondata sulle prestazioni, che accetta l'esistenza di stridenti diseguaglianze sociali, che è quella che, come ci insegna Tocqueville, è affermata in America. Il fatto è che le società umane rimangono legate non solo per convenienza o per paura delle pene, ma per qualcosa di più profondo, qualcosa che costituisce il substrato etico di ogni ordine politico. Anche le costruzioni democratiche si basano, oltre che su obblighi giuridici, sulla condivisione culturale e morale di valori e di principi. A mano che nel processo di secolarizzazione che ha caratterizzato la modernità, l'autorità dell'ethos tradizionale indotto dalla religione e dal costume si è andata in parte trasformando, in parte dissolvendo, nell'orizzonte della modernità, la democrazia ha costruito un nuovo ethos, grazie all'ausilio soprattutto del diritto, di cui sono d'accordo, con la sottolineatura anche di forza generatrice e generativa che Giacomo ricordava, diritto che è un sostituto meno prescrittivo ma non meno potente dell'ethos tradizionale. La carica emancipatrice del diritto romano, le conquiste cognitive connesse con il monoteismo della tradizione giudaico-cristiana, l'intuizione dell'eguaglianza di tutti gli uomini figli di un solo Dio hanno dato vita a uno straordinario processo di apprendimento etico-morale di cui si è nutrita la democrazia, generandone il caratteristico ethos meta-giuridico. Con la modernità la responsabilità perde i tradizionali punti di riferimento spazio-temporali, la tradizione, la religione, le autorità costituite. Emerge una dimensione etica che obbliga a confrontarsi direttamente con le questioni di giustizia e l'individualità moderna si esprime in un universo caratterizzato dal pluralismo dei valori, la molteplicità delle autorità, l'eterogeneità dei poteri. La struttura di autoapprendimento che è fondamentalmente la democrazia e la carica pedagogica intrinseca che essa perciò racchiude si connotano qui sul terreno di una profonda eticità. Hannah Arendt vede nella dimensione pubblica democratica ciò che trasforma un io altrimenti solo in un soggetto in cui la cui libertà è primariamente libertà di dialogare e quindi nella gioia dell'essere con l'altro, costitutivamente interazione intersoggettiva. Il fondamento di questo tipo di visioni democratiche sono il rispetto, che è una categoria altamente morale, di sé e degli altri, la dignità della persona umana. Rispetto, dignità, persona sono tutti straordinari dispositivi euristici con natura sia morale che cognitiva. Come afferma Honneth, un teorico del riconoscimento, le democrazie vivono dell'idea di derivazione antropologica secondo la quale per loro natura i soggetti umani hanno bisogno di essere percepiti e confermati nella sfera pubblica. Per questa ragione la libertà individuale e la pratica pubblica sono nell'uomo così strettamente collegate che solo l'esistenza di una sfera sociale nella dimensione pubblica della politica può consentirgli di condurre una vita buona. Qui non c'è solo redistribuzione, c'è anche riconoscimento per l'appunto, e comunque la redistribuzione incorpora molte componenti di riconoscimento. La grande aspirazione dell'etica pubblica democratica è stata proprio quella di definire i valori, le regole, i correlati sistemi di diritti e di doveri, le appartenenze alle diverse comunità locali, nazionali, supranazionali, sulla base di un principio di reciprocità egualitaria. In questo senso è vero che l'etica pubblica si è proposta come base strutturante la democrazia. Tutto ciò implica riconoscere la fallacia degli approcci positivisti, che sono quelli prevalenti oggi, e non solo in economia, ma anche nella teoria politica e nel diritto. Premesse antropologiche semplicistiche del tipo «è proprio della natura umana aspirare al potere in misura sempre maggiore», o l'agente umano è sempre strettamente autointeressato, sottostanno a impostazioni dalle conseguenze pesanti, che sono riassumibili così, per esempio. Le soluzioni politiche e sociali e gli accordi giuridici non possono che rispecchiare costellazioni di interessi, di cui è improprio e inutile ricercare giustificazioni morali. E su questa base è ovvio che nessun reincantamento della politica sarebbe mai possibile. Al contrario, io penso che tutte le società generano norme e principi morali. C'è una natura normativa in ogni essere umano che si esprime in gesti plasmatori e parole modellanti. Lo Stato di diritto è in realtà una filiazione della figura divina del legislatore, della potenza legislatrice del verbo. Tratto costitutivo dell'umanizzazione è proprio di derivare il senso della vita di ogni uomo da un significato che va al di là di lui, costruito attraverso norme fondatrici dell'umanità. Nascono così eccezionali configurazioni filosofiche, ma anche giuridiche, persona umana, uguaglianza, fraternità, libertà, e immagini collettive dotate di una capacità di persistenza, e credo operanti anche oggi, anche nel rincantamento della politica che dobbiamo compiere. Diritto, Stato, nazione, entità sovranazionali, sovranità, cittadinanza. Tutto ciò rende possibile pensare e ideare un avanzamento collettivo sui valori comuni dell'umanità e una vita sociale dell'uomo che si svolge tanto sul terreno dell'essere quanto su quello del dover essere. La salvaguardia dalla guerra civile, la preoccupazione massima di Hobbes, è affidata in questo contesto alla convisione di uno stesso dover essere animato da un'imprescindibile esigenza di giustizia, a cui Hobbes era totalmente indifferente. L'ingiustizia per lui era solo la violazione del contratto. La moralità dunque ha a che fare tanto con la giustizia quanto con il diritto. Giustizia e diritto delimitano un quadro antropologico che concorre a definire il territorio cognitivo entro cui vivono gli individui, i gruppi, le società civili e le società politiche, e da cui traggono il loro significato le diverse soluzioni ai problemi e le trame di connessione tra politics, politica in grande appunto, agenda politica generale, e policies, soluzioni specifiche. Al contrario di tutto questo, una sorta di non cognitivismo morale caratterizza le visioni neoliberali, quelle che non possiamo sperare siano scomparse, anzi tutt'altro, con la crisi economica globale in corso. Quelle visioni esaltano la materialità delle pulsioni, l'isolamento e la spoliticizzazione degli individui, la depoliticizzazione delle società, e ad esse fa da pendant, in termini paradossali, l'enfatizzazione neoconservatrice di regimi di sicurezza hobbesiani su scala mondiale, sulla base della cui presupposizione è stata legittimata la guerra all'Iraq. Il singolo viene privato della sua autonomia civica e abbandonato a una complessità contingente che lo schiaccia. Le diagnosi hobbesiane di tipo imperiale, quelle poi di tipo ulteriore, alla Toni Negri, esaltano una visione della politica in quanto affermazione e radiazione della forza e della potenza, che ha ben poco in comune con il lascito della modernità, impregnato di potenti idee di autocoscienza, autodeterminazione, autorealizzazione. Nella ricerca della giustizia si danno conflitti di valore, non è che tutto il mondo è pacifico, anzi, proprio al contrario. E questi conflitti di valori danno agli ambienti umani nei quali viviamo, proprio quando si attenua la capacità regolativa della religione e del costume, una densità morale senza precedenti. Per questo non bisogna dimenticare che gli illuministi non cercano un ordine qualsiasi. Essi cercano non il semplice superamento della violenza insensata causata dalla guerra civile, ma cercano un ordine giusto. Implicazioni dell'audacia morale e cognitiva degli ideali universalistici dell'illuminismo le ritroviamo nel Novecento, quando i diritti vengono estesi dal piano civile e politico a quello sociale. Che l'essere umano abbia valore in sé, che anzi sia la fonte primaria del valore in relazione a cui tutti gli altri beni dovrebbero essere giudicati e stimati, si traduceva nella logica conclusione secondo cui a tutti gli uomini e le donne dovessero essere garantite condizioni dignitose di vita, di autostima, di autorispetto. La elaborazione democratica si allargava al di là dei principi normativi del liberalismo dei diritti naturali, che tuttavia conteneva già in sé non solo ciò che classicamente gli viene riconosciuto, e cioè una limitazione delle prerogative del potere politico, ma ciò che i conservatori vorrebbero disconoscere, e cioè la mobilitazione dei poteri pubblici al fine di assicurare a tutti libertà sostanziali. Da simili fonti normative trae alimento l'eccezionale produzione legislativa del costituzionalismo democratico del Novecento, specie nella congerie del secondo dopoguerra. Una stagione di grande apertura e slancio vissuta in un solco deliberatamente neo-illuministico e neo-umanistico, da cui è nata la costituzionalizzazione della dignità della persona e della persona che è contenuta nella Costituzione italiana e anche nella Costituzione tedesca. Così il costituzionalismo ha riattualizzato il programma che segnò gli albori dell'assolutismo: disarmare la nobiltà, che mediante gli eserciti privati aveva monopolizzato la sicurezza, e redistribuire la sicurezza dai nobili agli uomini e alle donne comuni. Ma tale programma fa anche un grande balzo in avanti, perché sicurezza non significa più solo difesa della vita dalla violenza dei signori della guerra, dei nobili, dei baroni, ma significa anche molte altre cose: la salute, l'istruzione, l'adeguatezza del reddito, la dignità, le capacità concrete di essere, di fare, di avere, di sapere, di essere informati, perfino di giocare. Capacità e cose che dilatano il significato della libertà. Dovremmo anche ricordare che la solidarietà istituzionalizzata che nasce da questa estensione della sicurezza ha anche tutta una serie di implicazioni sulla proprietà, su come è trattata la proprietà e sul rapporto tra potere, modernità e proprietà, perché gli stati sociali rappresentano una forma di assicurazione della cittadinanza deproprietizzata, affrancata dalla possesso o meno della proprietà. E da qui è nata peraltro tutta la legittimazione politica e specificamente anche analitica della tassazione, che nella vulgata neoliberista è invece semplicemente rappresentata come esproprio, come furto che lo Stato compie a danno dei cittadini. Pensate a quanto è generalizzata l'affermazione mettere le mani o non metteremo le mani, come promette sempre Berlusconi e Tremonti, nelle tasche dei cittadini. Lo Stato si è rivelato quindi strumento di libertà. Questo è una cosa, un apparente paradosso da sottolineare. Non si è rivelato oppositore, ma strumento di libertà, di rimedio all'anarchia e di contrasto dell'ingiustizia e dell'oppressione che ne deriva, di neutralizzazione dei monopoli e di limitazione del potere privato, il quale potere privato è minaccia per la sicurezza alla stessa stregua del potere pubblico. Cosa che aveva già visto Adamo Smith, che infatti si preoccupava tantissimo dei monopoli privati. Il costituzionalismo democratico della seconda metà del XX secolo segna una frattura con la lettura economica e sociale, per la quale i rapporti di forza sono la chiave esplicativa e unica dei rapporti giuridici. Da una parte tale costituzionalismo adotta una teoria del governo diviso non come dogma antistatalista, dall'altra associa l'idea di libertà come autosviluppo del soggetto, l'idea di uguaglianza come riduzione delle disparità economico-sociale. Giungiamo così al punto per me centrale e anche, non vi preoccupate, conclusivo. Vale a dire il significato profondo dell'architettura istituzionale dei sistemi di protezione sociale e del ruolo che vi ha giocato il pubblico. C'è un altro concetto da definire, ridefinire e da valutare nella persistenza oggi per il nuovo incantamento della politica: pubblico. La progressiva rappresentanza politica di vaste masse finisce con il coincidere, con il dare loro larga rappresentanza sociale. Con ciò la fictio iuris, la presupposizione di meccanismi per cui qualcuno che è presente sta per qualcuno che è assente, comune alla rappresentanza giuridica e alla rappresentanza politica, svela la superiore qualità della rappresentanza politica. Di queste cose ci ha parlato Luciani in una bellissima lezione che abbiamo tenuto alla Scuola di Democrazia, il primo anno che l'abbiamo svolta. La rappresentanza giuridica rimane pur sempre nella sfera della privatezza. Rappresentare come mandatario un mandante nell'acquisto di un immobile è completamente diverso da rappresentare come parlamentare il popolo senza vincolo di mandato. E quindi la rappresentanza giuridica non può trasferire da una situazione ad un'altra valori, identità. È muta sul piano dei contenuti. La rappresentanza politica invece dal particolare accede alla generalità propria degli interessi della polis e quindi si costituisce, oltre che come fictio iuris, come fictio etica, vale a dire come costruzione concettuale in grado di elaborare significati di eccezionale valore, altrettanti dispositivi volti alla rappresentazione umana. Tutto ciò consente l'espressione della riflessività della modernità, la quale si articola lungo linee consensuali, discorsive, argomentative, ma anche in conflitti, come abbiamo detto. Le une e le altre hanno bisogno di istituzioni che li trattino, li organizzino, li elaborino, in una parola, che li medino. Istituzioni che nel mediare distinguono tra valori assoluti, la cui coesistenza è garantita dalla laicità, e questioni sottoponibili al confronto e all'argomentazione. Le istituzioni infatti non sono norme e nemmeno fini, ma non sono nemmeno puramente e semplicemente strumenti. Le istituzioni sono il medium delle relazioni sociali attraverso cui avvengono in forme mediate intersoggettivamente l'elaborazione, il riconoscimento e la generalizzazione di significati sociali, in quanto tali sono beni pubblici di secondo ordine. La mediazione istituzionale, pertanto, è una funzione centrale della modernità riflessiva e lo Stato sociale fornisce una delle impalcature fondamentali in termini di offerta di fini, materie e strumenti per tale mediazione. Consideriamo, per capire meglio il rilievo di quello che sto cercando di dire, consideriamo i quattro requisiti per riconoscere che cosa sia pubblico. Primo, in quanto posto a privato come sinonimo di segreto, pubblico è ciò che è esposto alla visibilità pubblica ed è incluso in un regime di pubblicità. Secondo, in quanto posto a privato come sinonimo di particolare, pubblico è ciò che è generale e pretende validità universalistica, passando attraverso processi di risalita in generalità. Terzo, in quanto posto a privato come sinonimo di esclusivo, per esempio i beni in regime di proprietà privata, pubblico designa ciò che è in comune. Quarto, in quanto opposto a privato come sinonimo di privativo, pubblico designa istituzioni in cui si depositano regole esterne a tali organizzazioni, costruite e curate per dotarsi collettivamente di riflessività. Ritroviamo tutte e quattro queste nozioni di pubblico nello snodarsi del rapporto tra sfera pubblica e istituzioni del welfare state. Ma ciò che è veramente importante, salto per esempio la messa in visibilità, è stata importantissima per quanto riguarda la fuoriuscita dalla invisibilità e la messa in visibilità, non so, l'abuso dei minori, l'abuso sui minori. Ma di questi quattro significati il più importante di tutti è, ritengo, quello appunto che produce mediazione istituzionale, il significato di terzietà. L'azione, perché è nello Stato, e specificamente nello Stato sociale, che storicamente si è sostanziato il principio di terzietà. L'azione pubblica dello Stato sui beni sociali è stato il vettore fondamentale per il riconoscimento della natura pubblica di tali beni. La messa in visibilità ha trasformato beni e problemi in materia del discorso pubblico sui fini e i valori collettivi, in tramite per il riconoscimento intersoggettivo e per l'individuazione di soluzioni comuni. È stato così colto il carattere collettivo di certe materie, come l'istruzione, la salute, la previdenza, e la cittadinanza è stata per l'appunto identificata come fine collettivo. Lo Stato, mediante il discorso e la discussione pubblica, ha istituito le fondamenta dell'articolarsi e dell'allargarsi della cittadinanza. Dello spirito di generalità della cittadinanza, infatti, è priva la società civile nella sua immediatezza, quell'immediatezza che invece è molto perseguita dai sostenitori della governance globale oggi contro un government globale che pure dovrebbe esserci. I processi del diventare pubblico hanno largamente coinciso con quelli del riconoscere la cittadinanza come fine collettivo. E gli uni e gli altri hanno dato vita a fenomeni di politicizzazione e a un tempo di soggettivazione, nei quali si sono estrinsecate tanto le ispirazioni di battaglie antiautoritarie, epiche battaglie antiautoritarie, quanto le pulsioni dell'ansia di individuazione. Dice Nancy Fraser che vi è un nesso tra soggettivazione e publicness. Profondamente intrecciati sono infatti i processi del diventare pubblico e quelli del disvelamento e riconoscimento di soggettività in precedenza mute o silenziose, prime fra tutte la soggettività femminile. Qui si manifesta l'importanza di ciò che Castor chiama individuazione, quel fenomeno per cui con l'avvento della modernità l'individuo viene riconosciuto di per sé stesso indipendentemente dalla sua iscrizione in ambiti collettivi. Si tratta di un fenomeno importantissimo che però proprio l'attenzione ai sistemi di welfare consente di distinguere dall'individualismo, specie nell'accezione liberistica, neoliberistica e conservatrice. Il punto è che il connubio tra il costituirsi della publicness, anche qui difficile trovare un termine italiano che traduce, e i processi di soggettivazione mostra da una parte che dovremmo adottare una nozione di individuo e di individualità molto più ricca, assolutamente fare leva sulla ricchezza che il liberalismo ci consegna in termini di enfasi sull'individuo e l'individualità, ma dovremmo adottare una nozione molto più ricca, individuo sociale per l'appunto e soggetto autonomo. Dall'altra abbiamo bisogno che le relazioni di riconoscere che le relazioni tra individuo e individuo hanno prodotto i risultati più straordinari della convivenza umana quando sono state queste relazioni sottratte all'immediatezza, quell'immediatezza della società civile, la quale è a mio parere l'anticamera del ritorno del tribalismo, l'infeudamento, la rifeudalizzazione delle relazioni sociali. E se volete avere una prova, leggete il libro bianco sul welfare del ministro Sacconi, che ha come titolo La vita buona nella società attiva, in cui si esalta appunto questa immediatezza con cui dovremmo risolvere tutti i problemi che deresponsabilizzano viceversa l'operatore pubblico. Concludo davvero. Paradossalmente l'affermazione dell'immediatezza delle relazioni tra individuo e individuo in luogo della prevalenza della mediazione tipica della sfera pubblica porta a un ridimensionamento e a un degrado dei livelli intersoggettivi della vita sociale. Il privatismo costituisce proprio questa suggestione dell'immediatezza, sostituisce l'intersoggettività con la dimensione personale, annulla quella potente sorgente di dinamismo delle società moderne che è il livello intermediario tra soggettivo e oggettivo, tra personale e collettivo, tra particolare e universale. Ma con ciò, questo è molto importante, non si deteriora solo la dimensione pubblica, scade anche la dimensione privata. La caduta di riflessività provoca un degrado qualitativo della stessa sfera privata, di cui abbiamo avuto sentore dalle indicazioni con cui Giacomo connotava la violenza simbolica. La sfera privata si avvita tra emergenza del privatismo, esasperazione dell'individualismo, permeabilità al populismo, involgamento dei linguaggi, impoverimento di forme e di contenuti.